farfalla cullata dal vento. Mi gira la testa, mi scalda il mio cuore, sono sintomi strani, sono voglie d'amore. L'istinto di donna sta sussurrando che lui è l'uomo giusto e lo sto sbagliando. Ho atteso per mesi e felice momento, così l'ho trovato in un valzer lento. Amore, amore, amore. Sparami dritto, amore. Ho sempre sbagliato, ma stasera io sento che hai fatto il centro. Lì dentro ai suoi occhi volo leggera, e quando mi chiude mi fa prigioniera. Mi leggo i pensieri che ha nella mente e so che vorrebbe amarmi per sempre. Ho sempre sbagliato, ma stasera io sento che hai fatto il centro. Ho sempre sbagliato, ma stasera io sento che hai fatto il centro.